voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese, decima puntata. Guadagnare qualcosa non era poi difficile. E si vede che Roma era piena di publi. Tutti mi dicevano che dovevo suonare, che dovevo aggiustarmi con qualche padrone e divertire i suoi clienti ai tavolini. Ma stavolta non c'era da far lavorare Carletto e andando in giro davo l'occhio alle vetrine dei meccanici, entravo in tutte le rimesse e mi informavo. Anche a Roma un lavoro di questi l'avrei fatto. Ma chi voleva la patente, chi mi chiedeva il ben servito, chi non credeva che venissi da Torino. Sono arrivato sopra un camion, gli dicevo, so portarlo. Ero stato uno scemo a non prendere nome e recapito di quel camion che ci aveva aiutati. A due passi da casa, su uno stradone che si chiamava la Via Cassia, c'era un ciclista che aggiustava anche selle e finimenti. Lì nemmeno sembrava che fossimo a Roma. E il ragazzotto che teneva la baracca mi disse: bisogna parlare alla bionda. Io credevo che fosse una bionda, e invece vedo una faccia da zingara, con le sottane che sembravano calzoni e la blusa a quadretti. Mi guardò la cravatta e le scarpe. La cravatta era buona, le scarpe bucate. E mi disse: conosci qualcuno? Non ancora, le dissi. Mi prese. Con quel va e vieni di stradini e manovali che facevano un ponte a due passi dal nostro, c'erano sempre biciclette da aggiustare. Pippo, il ragazzo, era piuttosto per salirci e far le corse. Questa bionda era una vedova, il biondo era morto. Non sapeva come fare a non rimetterci clienti. Ci trattava con gli sguardi cattivi e con poche parole. Si capiva che aveva paura di dar confidenza. Era di quelle che i mariti li fan fuori e poi piangono di notte. Pippo diceva che di notte era sonnambula. Ce l'aveva la faccia scarnita e gli occhietti, una faccia da vedova. Stava sempre nel retro e sorvegliavano gli altri da un buco del muro. La sera i conti li faceva a un tavolino in quella stanza e mi pagava percentuale. Là dietro dormiva, in un angolo scuro, c'era odore di petrolio di chiuso. La mattina arrivavo, mi aspettava sull'uscio, non diceva salute e spariva. Avrà avuto 30 anni. Prima cosa pulì la baracca e le chiesi un salario per Pippo che viveva di mance. Lui lo mise sul secchio alle camere d'aria e lo mandavo in commissioni e ogni tanto gli davo la libera uscita. Lo abituai che teneva l'orario. Poi disse alla bionda che tanto valeva far fuori le selle. Nessuno di noi le sapeva aggiustare. Capitava alle volte dalla campagna un carretto di vino, di quei carretti ricamati come fosse carnevale, col parasole a fisarmonica e una frasca sul cavallo. C'era una cinghia da cucire, 4 soldi. Ne parlai con la bionda, ma lei non volle saperne. Era stato il mestiere che facevano i suoi. Non dissi niente e rispondevo ai conducenti che eravamo occupati. Lei la capì e mi lasciò fare. Chi non capiva che facessi il lavorante era invece la vecchia Marina. Lo sai che vivi fuori porta? Mi diceva. Che uomo sei? Che sei venuta a fare a Roma? Chi ti conosce a questo mondo? Poi si sfogava con Dorina e le diceva che nessuno fa strada lavorando a giornata. Il tuo Carletto non lo aiuta, le diceva. Lo lasciate morire come un povero figlio. Questo ragazzo ha l'oro in mano e non lo sa. Ma Dorina le disse che qualcosa mi era successo a Torino. La vecchia allora stette zitta qualche giorno e Dorina rideva e ammiccava vedendomi. Si intrattenevano fra loro in gran segreto e qualcosa ne seppe Carletto che ghignava anche lui. Alla fine una sera la vecchia mi prese da parte, mi portò alla finestra e mi chiese se la Pasqua l'avevo già fatta. Non capivo lì per lì e lei svelta mi mise un'immagine in mano. Tienila in tasca, mi diceva, ti fa bene. Non ci credo, le dissi. Non si può dire, è benedetta, ti fa bene. Ma non sono ammalato, le dissi. Siamo tutti ammalati, va? Non sei battezzato? Il giorno dopo era felice e alle ghignate di Carletto. Sono ragazzi, ripeteva. Sono giovanotti che la donna li tormenta. Li lasciai dire e continuavo quel lavoro. Adesso uscirmene la sera coi miei soldi era un piacere. Veniva notte, notte calda, e le piante fiorite facevano l'estate. Passando il ponte per andare in trattoria, vedevo a destra le colline con quei pini e non capivo perché fossero bruciate e spelacchiate. È la città che se le mangia, diceva Carletto. Che storie. con tante piante che c'è a Roma non è il terreno che fallisca, è che Roma ha spianato le campagne e le colline e sta in mezzo a un deserto. Quando gli chiesi se dai Colli o da San Pietro non si vedeva un po' di mare, lui mi disse che dovevo andarci, avrei fatto più presto. Senza dir nulla alla famiglia, un bel mattino presi il tram, scesi a Ostia e arrivai sulla spiaggia. Mi ricordavo di quel sogno con Lilì che correvamo in riva al mare. Da molto tempo non sognavo più donne. Camminai sulla sabbia bagnata. Sembrava un prato e mi sedetti sulla sabbia e guardavo le schiume. Poi camminai verso dei pini, neri, neri, in lontananza. E camminando davo calci alle immondizie e pensavo alla sciarpa trovata da Amelio. Tornai la sera, avevo ancora quel sapore sulla bocca. Adesso capivo perché a Roma la gente riempiva le strade e ridevano e andavano, e non solo i ricconi ma anche in barriera. Bastava guardare quel cielo sui tetti per convincersi che il mare non era lontano. Dalle finestre, dalle porte, dalle terrazze, anche i poveri diavoli sentivano il mare. Manovali, ragazze, bambini, operai, gente povera, sfaticati, che uscivano in strada e parlavano forte e ridevano. Un mattino incontrai dei fascisti. Ridevano anche loro. C'era stata adunata e tornavano a casa cantando. Han trovato la vigna, mi disse Carletto. Hai mai visto scontento chi mangia e beve? Sembran gente anche loro. Non è mica Torino. Qui a Roma si viene per mettere il lardo. Qui si godono i frutti. Prova a togliergli il piatto e poi vedi. Ma quanti sono che rosicchiano, gli dissi. L'Italia è piena di scannati che non mangiano. E se chiedi, sono tutti fascisti. Allora facemmo i discorsi di Amelio. I discorsi che Amelio cominciava soltanto, poi scuoteva la testa e diceva sciocchezze. Quando partiva sulla moto lo aspettavano a Novara. A quel tempo capivo che non si fidava di me, perché mai che io leggessi un giornale o dicessi qualcosa. Ci pensavo qui, a Roma. Adesso sì che avrei voluto averlo accanto. E Carletto parlò come lui. Disse che parte della colpa era anche mia. Ero dei tanti che restavano a guardare. Com'era che avevano fatto i fascisti? Menato le mani. Presa Roma e menate le mani. Anche noi bisognava fare un blocco e resistere. Cosa pensi? Gli dissi. Vuoi prendere Roma? Quella sera girammo per i ponti finché ci fu luce. Ci appoggiavamo alle spallette e parlavamo. Mi raccontò che tutti i vecchi erano vivi. Tutta gente di prima, disposta a rischiare. Ce n'erano all'estero, ce n'era in prigione. Tutti tenevano e restavano a contatto. I fascisti non sono tranquilli, mi disse. Le prigioni sono piene. C'è della gente che sta in casa e ha il questurino sulla porta. Sai che cosa vuol dire? A noi toccava, come nuovi, lavorare nella massa, ascoltarli discorrere e dargli una mano. C'erano i mezzi. C'era la stampa da passare, far propaganda nella massa. Combinare uno sciopero, mi disse. Quando Carletto se ne andò per fare il numero, io pensavo ridendo. E Dorina? Se il marito esce fuori, che cosa succederà? Ma la raggiunsi in trattoria e ripensavo a tutto quanto e mi dava coraggio che per tutti quelli in prigione ci fossero ancora speranze. Era una notte bella e chiara e tutti andavano e venivano dappertutto, reclam, luminose, automobili e carrozze. Le osterie lavoravano, la radio cantava e quei poveri storti che erano dentro. Sarebbe stata una gran cosa dare un giro alla baracca. Non più vedere quella faccia sopra i muri, spaccar tutto. Mi calmai presto e mi dispiacque non averci la chitarra. Quella sera comparvero Luciano e Fabrizio, quei due amiconi di Carletto, e si parlò del mascherino e Dorina voleva far festa insieme a loro. Arrivò più tardi un chitarrista col fiore all'occhiello e suonava da cane. Tutti dicevano di smetterla, di passarmi la chitarra, ma lui si accorse che ero nato un po' più in su e mi disse «porco», poi mi tirò una sedia in testa. Poi mi disse bastardo. Quando arrivarono gli agenti era per terra che ruttava. Siccome li aveva buscate da me, dovetti dare il nome e il resto e mi dispiacque. Fino allora, chi sapeva qualcosa di me? Dorina si era spaventata mica poco e ci toccò portarla a casa in carrozzella. Poi restammo a passeggio noi quattro e si cianciava andando su per la collina. Queste figure non succedono a Torino, diceva Luciano. Come no? All'osteria c'è di tutto. Pablo è in gamba, disse Carletto fermandosi. Pablo sa dire all'occasione una parola. Bisogna convincerlo a venire con noi. A me pareva tanto tempo che non vedevo più Torino. Ascoltando quei due pensavo alla notte che avevamo passato bevendo e suonando, e nevicava, e la mattina ero uscito per andarmene via solo. Anche stavolta era notte, una notte di Roma. Dissi: e Giulianella? Canta sempre? Quelli parlavano di me e non mi risposero. Faceva ridere pensare che Carletto comandasse della gente. Lui decideva. Domani ci sono le copie. Tu, Fabrizio, le porti a Trastevere. Tu, Pablo, vieni con me a fare il giro. Il giro era andare a portare le stampe in un dato quartiere. Tu, Pablo, che vivi a contatto con tanti, i muratori e i manovali che lavorano sul ponte sono quelli che ci occorre. Uno sciopero edile, vuoi mettere? Ne sanno loro più di me, dissi. Vengono dentro il negozio e mi fanno loro propaganda. Sanno al centesimo quel che gli appalti hanno rubato. Questi dati vanno raccolti, disse Luciano. Dobbiamo farli sapere ai nostri amici. Accettai, l'indomani, di andare nel giro. Uscimmo svelti a mezzodì perché la bionda era in bottega. Dove sono le stampe? Carletto ghignando mi disse, ci sono. Camminavamo discorrendo di sciocchezze. Poi saltammo sopra il tram che passava. Scendemmo dopo San Pietro. Non avessi questa gobba, diceva Carletto, mi conoscono tutti. Mentre andavamo, do un urtone a un militare. Quello si gira e attacca lite. Stavo già per rispondere, ma Carletto mi ferma. Tira via. Un'altra volta. Ci ficcammo in quei vicoli allo sbocco del ponte. Sono buchi che sembrano tante stalle. Come a Genova, disse a Carletto. Lui non parlava e si cacciò dentro un portone. Aspetta qui. Era scuro e fetente là sotto e Carletto scomparve. Dopo un minuto me lo vedo comparire dalla strada. Veniva adagio e sogghignava. Ce ne andammo. E allora, dico, le posiamo queste stampe? Già fatto, mi fa sottovoce. Torniamo nel centro. Tutto qui? Mi chiedevo guardandomi intorno. E perché non me l'hai data una stampa da leggere? Voglio sapere cosa scrivono quei tali. Sarebbe stata un'imprudenza, disse lui. Non è mica una cosa che leggi sul tram. Io non capivo dove stesse il gran pericolo. Carletto allora mi spiegò quel che dicevano le stampe. Tornando a casa ci pensavo e cercavo di mettermi al posto di chi riceveva quei fogli. Che cosa avrei detto leggendo che tutti rubavano? Che bisognava tener duro e non tradire gli italiani? Che tutto il mondo ce l'aveva coi fascisti? C'era chi le scriveva e rischiava la pelle. I miei stradini le dicevano in bottega. Non capivo il bisogno di scriverle e farsi prendere. Non capivo che gusto Carletto ci provasse. Quando arrestavano qualcuno con quei fogli erano felici. Lo diceva anche lui. Glieli leggevano sul muso e poi botte. Valeva la pena. Se vuoi farla a qualcuno, non devi dirglielo prima. Ritornando in bottega mi faceva un certo effetto. Tutto sommato ero contento di sapere com'era. Mai più la bionda si pensava che ero stato a fare il giro. Avrei pagato non so quanto per parlarne con Amelio. Me lo vedevo nel letto in mezzo a tutti i suoi giornali. Ma doveva essere stato più furbo lui. Per esempio, con me non aveva fiatato. Quanto avrei dato per parlargliene stavolta? Viene invece il negozio Solino, che era stato un amico del biondo e lavorava a quel catrame e passava dall'oste le mezze giornate. Non ci pagano, disse. Perché lavorare? Chi mi paga? L'impresario ha interesse che duri. Prende un tanto lui sulle nostre giornate. Dal finestrino la mia vedova guardava. Avevo acceso mezza cicca, me ne stavo sulla porta. Passò un camion col grosso rimorchio e la targa d'Ancona. Anche quello è un vivere, diceva Solino. Se ne fanno dei soldi. Ci ho lavorato sopra i camion, dissi allora. Mi piacerebbe andare un po' per queste strade. Venne la bionda in bottega con quel passo svogliato. Fammi accendere, disse. Fumava sovente anche lei sull'uscio e teneva la cicca come fanno i ragazzi. Era in tuta, la tuta del biondo. Vuoi andare sui camion, disse. Quel Solino sputò in strada e si mosse. State attenta, le fece. Se lui vi pianta, allora sì che siete vedova. Adesso mangiavo dall'oste là in faccia e vedevo il negozio. Mangiavo al fresco sotto gli alberi e sul mezzodì sentivo i muratori. Arrivavano sporchi di calce e comandavano un litro. Mai che la bionda mi dicesse di mangiare con lei nella stanza. Si capiva che a starsene sola ci pativa. Alle volte veniva sull'uscio e fumava. Con quella blusa a quadretti sembrava un ragazzo. Scura com'era, non pigliava mai sole. C'erano giorni che provavo a figurarmi cose vecchie, che quella non fosse la bionda e che stessimo insieme. Ero rimasto come quando si guarisce dalla febbre, bastava un niente a toccarmi nel sangue. Ma la sera ero contento di andarmene. Con Dorina e Carletto mangiavo cena e la chitarra la tenevo addirittura in trattoria. Veniva sempre l'occasione di suonare gli stornelli e Carletto sapeva cantarli come un romano. Ci capitavano ragazze, le Lili che stanno a Roma, tutte in coppietta col loro vigliacco. Io giravo là tra loro felice e scontento, ma sapevo che cos'era e bevevo su tutto. Rispuntò Giulianella, la sorella di Luciano, e facemmo una notte cantando per le strade. Combinammo in tre o quattro di andare a fare il bagno sul Lido. Poi nessuno aveva belle mutandine, andammo invece nei castelli a far merenda. Anche quelle, che terre. Mai che si veda una vigna e non hanno che vino. Salimmo a Rocca di Papa e si rideva e si mangiava. Una volta scrissi a casa per dire che m'ero aggiustato. Quando arrivò la loro lettera col bollo di Torino, la tenni in tasca e la rilessi molte volte. Tua sorella Carlotta, c'era scritto. Non mi facevano più il muso e mi dicevano sta bene. Sembrava strano che venisse di lassù. Anche Giulianella mi scherzava volentieri. Mi chiedeva se a Roma c'ero proprio venuto per sposarmi la vedova. Ficcava il naso nei discorsi che facevo con quegli altri. Diceva, se Pablo rimedia il negozio, vi dà il giro e diventa fascista anche lui. Cosa c'entra il negozio? Dissi. Ma allora dove hai la ragazza? Vieni a trovarmi e te lo dico. C'era Dorina che a sentirci chiacchierare di politica le pigliava il nervoso. Voi non sapete che cos'è vederseli in casa, ci diceva. Buttano in aria, tirano l'acqua al gabinetto. Non sapete cosa sia avere un uomo in prigione. Preferirei vederlo morto. Non c'è più pace per nessuno. È una morte che dura dei mesi, degli anni. Tutto serve, disse Carletto, anche queste ingiustizie. Ma non chi è dentro. Basta che sappia perché c'è. Capitò che si seppe di gente arrestata perché la sera andavano insieme al caffè. Luciano, che diede la voce, ne conosceva qualcuno. Erano avvocati, studenti, signori. Ecco, disse Carletto, questa è gente che lo sa perché è andata dentro. Vuoi che un dottore, un avvocato ci si metta a cuor leggero? Sono gente che ha molto da perdere e che studia sui libri. Lo sapranno, gli dissi. Ma facevano che cosa? Lavoravano contro, anche loro. Per raccontarsi quattro storie in un caffè non vale la pena. Vorrei sentirne uno dei buoni, sei contento. Anche loro facevano il giro, disse Luciano. Ma a che cosa serviva quel giro, gli chiesi. Mettere per scritto quel che tutti sapevano era troppo da scemi. Rischiare non valeva la pena. Che cosa che volevano gli studenti e i signori? Mettersi al posto dei fascisti? Lo facessero. Tanto noi, l'operaio, il facchino, loro, Luciano e Giulianella, le famiglie che stavano in dieci in un buco, non contavano niente. C'era sempre degli altri sul camion. Era come buttarcisi sotto. La Marina, gli dissi, che è una vecchia carogna, si ricorda di come si stava una volta. Come andavano loro una volta. Qui Luciano mi diede ragione, ma disse che si fa tutto per cambiare. E va bene, gli feci. Ma dimmi che cosa? Fino adesso nessuno me l'ha detto. A un certo punto fu Carletto che gridò, io ti conosco, tu vuoi fare le cose da te come viene, hai paura che un altro ti freghi, è un destino così, ma le cose succedono anche se non vuoi. Brutta bestia, gli dissi, succedono a molti. La volta dopo glielo dissi chiaro e tondo anche a Carletto, per fidarsi di quelli che studiano bisogna studiare, tu hai mai capito quando parlano se sono dalla tua? Dissi così, tanto per dire, farlo smettere. Ma a questa di studiare ci pensavo da un pezzo. Per capire le cose bisogna studiare, non le sciocchezze che insegnavano a scuola noi altri, ma com'è che si legge il giornale, com'è fatto un mestiere, chi comanda nel mondo. Si dovrebbe studiare per saper fare a meno di quelli che studiano, per non farsi fregare da loro. Già allora capivo che la strada è questa. Per studiare così c'era certo un sistema, c'era qualcuno che sapeva tutto questo, ma trovarlo e fargli capire che avevo capito. Tutte le sere si parlava, si tornava alle ore piccole. Per non dar nell'occhio andavamo sui viali, cambiavamo di osteria, uscivamo in campagna. Dorina e qualche altra veniva con noi. La chitarra serviva a scusarci, ma c'era delle notti che avrei suonato come un matto anche da solo, sotto le piante. In quel fresco di luna non potevo tenermi. L'aria di Roma è proprio fatta per star svegli. Allora sì che avrei voluto essere in gamba, saper cantare come i negri, aver studiato. Sono il più giovane, dicevo, ho ancora tempo. Qualche volta pensavo alle cose che mi erano toccate in un anno, a come ero cambiato, alla fortuna di quel viaggio. Tutto va bene se va bene, dicevo. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.